Il diario di Q. Londra, 23 giugno 1550. Giorni di pioggia e di colloqui. Stolidi aristocratici inglesi che tramano alla luce del sole, incapaci di ogni diplomazia. Sanno usare la spada, che qui tutti portano in bella vista. Nient'altro. Si risolverà tutto nel sangue e vincerà chi avrà l'esercito più numeroso. Tre contendenti, tre partiti, equilibri improbabili. Edoardo, un ragazzino con la corona sul capo, che si è scelto come precettore niente meno che Martin Bucero, il maggior teologo luterano. Maria, figlia del primo matrimonio di Enrico VIII con Caterina d'Aragona, dunque per metà spagnola, devotissima al Papa. Poi la giovane Elisabetta, nata dal sangue di sua madre, Anna Bolena, che sembra invece ammirare le scelte scismatiche del padre. Le casate che appoggiano Maria la Cattolica vedrebbero di buon occhio il ritorno in patria di Reginald Pole come paladino del cattolicesimo. C'è già chi gli tiene caldo lo scranno di Canterbury. Ma non sanno parlare d'altro che di sterminio degli avversari. Da secoli questi nobili giocano a eliminarsi, a estinguersi a vicenda in guerre familiari che ricordano più gli usi barbari dei Celti che l'arte della politica. Qui è peggio dell'esilio. Non ho notizie dell'Italia. Quella lama non è arrivata. Carafa mi concede ancora tempo. Forse sta decidendo cosa fare di me. O forse tutto fa parte del piano. La risoluzione degli stoici non mi riguarda. Nessuna delusione da espiare, nessun rimpianto. Quassù piove, piove sempre. Un'isola che non conosce stagioni e che le racchiude tutte in un solo giorno. Morirò altrove. Londra, 18 agosto 1550. Il mio compito è esaurito. Non c'è stabilità in vista. Torno con molte promesse e la certezza della totale inaffidabilità dei nobili inglesi. Maria non bussa solo alla nostra porta. Ho visto anche i consiglieri spagnoli. Carlo V ha un figlio da rimaritare, per quanto di almeno 10 anni più giovane di Maria. Se Carafa auspica il ritorno di Pole in patria, dovrà tenere conto che questo potrebbe significare l'avvicinamento di Spagna e Inghilterra, a tutto vantaggio dell'imperatore. Il disinteresse per queste vicende ha reso difficile redigere le relazioni inviate a Roma e ora che mi accingo a partire sento di non avere alcuna fretta di tornare. Quello che rimane è la curiosità per un enigma e il senso di un'ultima cosa da fare. Voglio concedermi il tempo di ricalcare le orme, di capire che cosa preme per affiorare in superficie.